sole con la luna mirate che contrasto fa il sole con la luna ed ed ad una le stelline amorate le stelline amorate vorrei partirti ed ed ad una le stelline amorate le stelline amorate vorrei partir di qua adesso viene il bello dove torrai tu bello torrai tu soffello soffuffalo soffollalo si pigliano sono incantati sono incantati mi strepito che chiasso e bel piacer che spasso s'afferro s'acciuffalo s'affollano si pigliano sono incantati sono incantati già mi strepito che chiasso e bel piacer che spasso e bel piacer che spasso Hey!